benissimo perché è il corpo e quindi non ho nessun problema a far vedere una gamba, perché una gamba è una gamba, non ha niente di sessuale, può essere sensuale. Certo, ma il sesso è un'altra cosa. Quindi il gioco anche, è anche un modo per capire, cioè per dare valore a se stessi, perché è indipendentemente dalla fisicità che ci si dedica, per esempio, a un'arte come questa. Cioè non è necessario avere per forza un bel fisico. Può essere un fisico anche formoso, basso, molto grosso, però perché so che ci sono anche persone con un fisico così che però desiderano comunque rendersi piacevoli, perché devono piacere a se stesse, prima cosa. Credo esattamente, proprio perché vai comunque a valorizzare la tua persona e il tuo essere donna, non semplicemente il tuo corpo. Quindi può essere fatto in qualunque forma, che se quello che c'è dentro ha valore, anche quello che c'è fuori prenderà valore. Infatti durante i corsi si vede proprio la trasformazione della donna, che non per forza deve diventare una diva. Semplicemente impara a scoprirsi un po' di più sotto un lato che magari o si ha paura di andare a scoprire oppure semplicemente non lo si conosce. Infatti i nostri corsi sono molto richiesti perché danno proprio lo spirito giusto a tutte le donne di tutte le età. Andiamo adesso, è stata aperta anche una scuola a Napoli presso il Cabaret Portalba, dove vengono fatti anche corsi in associazione con la CAF du Burlesque, e quindi stiamo andando a toccare un po' tutte le fasce di età, di forma, dimensioni e spirito. Ecco, tu che hai girato anche l'Europa e che quindi insomma hai visto molti spettacoli, da questo punto di vista l'Italia è molto indietro oppure è qualcosa che sta appassionando in questo momento storico il mondo intero, quantomeno l'Europa, gli Stati Uniti, anche perché sta per uscire il film Burlesque con Christina Aguilera, sì. Quindi da questo punto di vista sta diventando un po' di nuovo un fenomeno non soltanto in Italia, mi pare che sia piuttosto internazionale. Sì, beh, direi che all'estero è già scoppiato il fenomeno. La differenza è che in Italia purtroppo io penso che qualunque cosa diciamo arrivi o ritorni in qualche modo come nuova, viene plasmata a nostro modo, per cui non so come dire, all'estero ci sono tantissimi locali che sono dedicati al burlesque e i locali dedicati allo striptease, e la gente sa benissimo dove andare perché viene già istruita così, insomma sa che cosa va a vedere. Esatto. Ecco, Carlotta, in Italia invece quando ti proponi con un ostacolo di burlesque, dove quindi per esempio non ti spogli affatto ma racconti una storia, no? Fondamentalmente sì. Anche una storia comica che fa sorridere, che fa anche certo. Ridere. E sì. Noti qualche faccia così di disappunto perché si aspettava una cosa completamente diversa? Ma assolutamente, spessissimo capita, capita direi sempre, perché allora le donne si innamorano perché vedono comunque l'uso della femminilità e del proprio corpo in una maniera che è totalmente delicata ed elegante, quindi dà molto valore a chi la sta interpretando, quindi sono proprio ammirate a bocca aperta. Gli uomini invece, sì. Che magari all'inizio partono un po' sovraeccitati all'idea, già solo all'idea, durante l'esibizione piano piano si placano perché vedono che non ci possono giocare più di tanto, ma certo. È chi sta facendo la performance che gioca con loro e li prende in giro, però non gioca per sedurli, ma proprio li prende in giro dichiaratamente. Quindi questo un po' fa sorridere, ma non fa insomma lasciare proprio le redini. No, infatti poi quello è il meccanismo che succede, perché è una cosa anche che non si conosce, si aspetta, gli uomini si aspettano di vedere una cosa, poi ne vedono un'altra, ed è anche il motivo per cui il burlesque piace anche molto alle donne, non le infastidisce, e qui, perché qui si apre poi anche un'altra porta. Intanto grazie Carlotta, vediamo che cosa succederà, sta per partire anche un reality, se non mi sbaglio, proprio sul burlesque, tu sei anche la protagonista del trailer che lo racconta. Sì, e vediamo come andrà a finire e chi poi emergerà. Di brave ragazze che fanno burlesque in Italia ne abbiamo molte, mi sa di no. Ma io direi che invece ne abbiamo molte, perché noi come bene. Artisti, come ballerini, come cantanti, insomma siamo molto considerati in tutto il mondo, perché effettivamente siamo naturalmente portati a essere artistici. Però proprio per scoprire questa cosa, insomma, se ce n'è e quante ce n'è, abbiamo deciso, e questo è un annuncio che sto facendo per la prima volta, sono aperte le iscrizioni per Miss Burlesque Italia, il primo concorso nazionale per performer o aspiranti performer di burlesque. Ecco, quindi se avete... noi chiamiamo le burleschine. Eh beh sì, certo, se avete voglia appunto di esibirvi, magari avete un numero che è venuto in mente, volete proporvi, c'è questa possibilità. E se volete cercare invece quello che combina Carlotta in veste del suo personaggio, il nome è Lili Le Ludic. Grazie Carlotta, ciao, buona domenica. Grazie a te Stefano. Grazie ancora. Ciao, l'abbiamo annunciato, nel senso che appunto sta per uscire il film con Christina Aguilera, Burlesque, parliamo proprio di questo, della seduzione all'interno dei film. Quanto è per Los Angeles? Dipende, andata e ritorno. Sta scherzando, vero? Quando metti il trucco è come se fossi un pittore, ma invece di dipingere sulla tela ti dipingi la faccia. Che posto è? Lei è Tess. E tu perché sei nel mio specchio? Non ho mai visto niente del genere, voglio assolutamente farne parte. Grande entusiasmo, pessimo tempismo. Non è la ragazzina che era dietro le quinte ieri? Voglio essere lì, voglio farlo anch'io. La domanda è, ce l'hai il talento? Dove sono le grandi ballerine di Los Angeles? Lavorano con le star. Fa quella lì sopra. Credo voglia un provino. Ehi Dave, taglia! Aspettate, no, ce la posso fare. È carino che ci credi. Giù il sipario, forza, andiamo. Aspetta. Su il sipario. Ali, qual è il tuo vero nome? Alice. Alice? Benvenuta nel Paese delle Meraviglie. Il riposo del guerriero. È il momento di Christina Aguilera, nel senso che non solo interprete di burlesque, ma stasera canterà anche nel Super Bowl, che è il spettacolo, chiamiamolo così, perché lo è davvero più seguito in assoluto dagli Stati Uniti. Francesca Fiorentino, ciao, buona giornata, buona domenica. Buona giornata Stefano, buona domenica a tutti gli ascoltatori. Francesca è giornalista di Movie Player per parlare proprio di film. Io vorrei cominciare dal andare al contrario, cioè non partire dal passato ma partire dal presente per tornare al passato. Partiamo proprio da Burlesque, che tu già hai visto, sai già qualcosa di quello che... ecco, sì. Sì, l'ho visto in anteprima all'ultimo Torino Film Festival, un film che uscirà nelle nostre sale venerdì 11 febbraio, quindi sì, ci siamo, praticamente tra poco tutti gli spettatori potranno vederlo. È un film che è essenzialmente costruito, cucito su misura per Christina Aguilera, che è la protagonista assoluta di questa sorta di favola barra musical, in cui lei interpreta appunto una cameriera dell'Iowa che compra questo biglietto di sola andata per Los Angeles per realizzare finalmente il sogno della sua vita, che è quello di diventare una cantante, di sfondare nel mondo dello spettacolo. Una storia nuova che non abbiamo mai visto nella cinematografia. Assolutamente, e poi molto nuovo anche lo sviluppo, perché che lei approda in questo locale. Aspetta, di si innamora? Aspetta. Si innamora, certo. Ma dai. Uno dei camerieri, che però in realtà è un pianista, quindi un compositore sotto mentite spoglie. Insomma, vabbè, nulla da dire. Lei diventa assolutamente la prima stella del burlesque del locale nel momento in cui una delle ballerine di punta è assente. Quindi un altro classico meccanismo, diciamo, dei film hollywoodiani. L'occasione, no? Rappresenta un po' l'occasione. L'occasione riesce anche a conquistare l'amicizia e la stima di Cher, che è appunto la proprietaria di questo locale, in realtà in gravissima crisi finanziaria, e ovviamente lo porta al successo grazie alla sua straordinaria bravura. Possiamo dire che l'Aguilera in questo film canta come il suo solito, quindi canta in maniera eccezionale. Dal punto di vista della recitazione, ecco, magari la attendiamo a prove un po' più, come dire, più mature, perché comunque in questo caso giocava in casa, diciamo, non ha fatto nulla di più di quello che è sempre stata abituata a fare. Anche la canzone che avete scelto giustamente all'inizio per aprire la puntata, Lady Marmalade, lei era una delle voci, diciamo, di questa versione della canzone per la colonna sonora di Moulin Rouge di Baz Luhrmann. Quindi non è un film sicuramente innovativo, non sconvolgerà, diciamo, il genere musical, però se non altro è la dimostrazione, insomma, che è nata una stella al cinema per quello che riguarda ovviamente Christina Aguilera, anche se, insomma, l'attendiamo un pochino in prove un po' più complesse, diciamo. Ecco, Francesca, Burlesque è il nome del locale dove si svolge un po' la scena principale del film. Sì. E quanto però il burlesque fa parte, il burlesque come arte, prima non so se hai sentito Carlotta, sì, che l'ha raccontato, quanto fa parte del film l'arte del burlesque? È una domanda giusta, Stefano. In realtà questo non è un film che rende merito al burlesque come genere di spettacolo o che in qualche modo svela qualcosa di nuovo di quest'arte, perché comunque i numeri che noi vediamo, sono 13 in tutto, sono in realtà qualcosa che sì, si avvicina al burlesque, ma non si può sicuramente parlare di spettacoli burlesque in senso stretto. Ci sono appunto dei numeri musicali ben coreografati, con alcune canzoni decisamente ammiccanti, con chiaramente coreografie molto sensuali, ma in realtà di burlesque vero e proprio c'è poco. Quindi magari io, se uno spettatore, se una persona incuriosita dall'argomento vuole conoscere qualcosa di più, sicuramente consiglierei altri film che non burlesque. Ecco, quindi, cosa consiglieresti? Ce l'hai? Ma ad esempio la donna che inventò lo striptease, che è un film del 1962 interpretato da Natalie Wood, ed è la storia di Gypsy Rose Lee, che è una delle pioniere del burlesque, una delle personalità di spicco, diciamo, di quest'arte particolare, donna molto, molto sensuale, molto forte, dalla grande personalità. Sicuramente qui si può scoprire qualcosa di più che non nel film di Steve Antin, insomma. Ecco, Liza Minnelli in Cabaret, per esempio, non faceva proprio un burlesque, però c'è una scena molto famosa, lei sulla sedia che si toglie la calza, se non mi sbaglio. Assolutamente, ed è uno di quei film che ha un po' ispirato dal punto di vista dell'immagine lo stesso Steve Antin, chiaramente per burlesque. Ovviamente i risultati sono completamente diversi, perché non si possono assolutamente paragonare i due film. Cabaret di Bob Fosse è un capolavoro del genere, in cui spicca questo personaggio meraviglioso e tragico al tempo stesso, che è quello di Sally Bowles, che ricorda visivamente le vecchie stelle, diciamo, del cinema muto. Lei porta i capelli a caschetto come Louise Brooks, che è stata la Lulu di Pabst, i suoi movimenti ricordano quelli di Marlene Dietrich nell'Angelo Azzurro, quindi ci sono dei fortissimi riferimenti a quel cinema in cui la donna era una donna seduttrice, ma era anche una donna corruttrice. Ti ascoltavo, insomma, prima dicevi che, insomma, è impossibile considerare la seduzione come sinonimo di corruzione. In realtà nei primi film, quelli che ho citato, la donna è sempre stata colei che portava l'uomo verso la perdizione, verso il peccato, quindi in certo qual modo la seduzione è sempre stata considerata peccaminosa, almeno per quello che riguarda i primi film. E così risponde alla mia domanda, quando ho letto che per un dizionario la seduzione è l'allettamento al male, alla colpa, al traviamento. Assolutamente, certo, Lola Marlene Dietrich nell'Angelo Azzurro corrompe un professore eticamente, una persona assolutamente morale, un gran padre di famiglia, che alla fine appunto diventa lo zimbello di tutti. Stesso dicasi per gli uomini che si innamoravano della Lulu, diciamo, della splendida Louise Brooks. Quindi alla fine la donna è sempre stata considerata appunto, ecco, come, mi viene una ecco, fondamentalmente Adamo ed Eva, no? Mi viene, sì, una domanda, allora, sì, allora è questa, ma l'inverso non è mai stato raccontato, o molto più raramente? Dici della seduzione maschile? E certo, l'uomo che seduce e che corrompe, no? In questo l'uomo senso, che seduce e che corrompe, sì, certo, è stato, penso adesso su due piedi alla grande figura di Rodolfo Valentino, sì, questo uomo pieno di fascino che faceva cadere le donne ai suoi piedi, certo, però c'è comunque una valenza diversa, perché in questo caso non si parla quasi mai di corruzione, ma di fascino e di seduzione, quindi c'è chiaramente un conflitto culturale alla base che insomma si è prolungato nella storia del cinema anche dopo anni e anni di rivoluzione sessuale, anche quando appunto il sesso è stato finalmente svincolato da questo senso di peccato, insomma. Quindi alla fine il canovaccio è sempre quello, purtroppo, diciamo. Manuale d'amore 3, veniamo ancora ai nostri giorni, perché la seduzione, il gioco, se vuoi anche l'erotismo e fondamentalmente l'amore stanno un po' cambiando faccia, no? Come sta cambiando proprio nella cinematografia questa parola amore e anche queste parole, l'erotismo e la seduzione? Ma è una domanda da 100 milioni di dollari. Per quello che riguarda Manuale d'amore, ma non solo, perché comunque nelle sale da venerdì abbiamo il secondo capitolo di Fausto Brizzi, Femmine contro maschi. In realtà quello che emerge dai film è il ritratto di uomini e donne in crisi di identità, che probabilmente non riescono a rapportarsi con l'altro in maniera, come dire, mi verrebbe da dire normale, anche se normale non è il termine adatto. In realtà forse la parola che emerge appunto è confusione. È la commedia che riesce un pochino meglio a raccontare certe cose, anche se purtroppo con i ritmi e con gli schemi della commedia purtroppo si tende un pochino a banalizzare quello che in realtà è un po' più complesso. Infatti cerchiamo proprio di chiarire questo aspetto. Tu hai detto confusione e sentiamo com'è. Intanto ti ringrazio, Francesca Fiorentino, sei stata chiarissima come sempre, ci sentiamo presto, grazie ancora. Ciao, grazie. Perché per capire se c'è confusione e quale tipo di confusione possiamo avere, davvero qui è molto difficile andare a capire come sentimenti stanno cambiando, come amore, come seduzione ed erotismo stiano cambiando. Willy Pasini, buona domenica, grazie. Buona domenica. Ha appena pubblicato, ormai di un anno, credo, La riscoperta dell'intimità, dopo 20 anni dal primo libro, dall'intimità, quanto tempo era passato? Sì, esatto. Perché siamo cambiati e quindi lei più di ogni altro forse può raccontarci che cos'è oggi, cosa significa oggi sedurre, cos'è l'erotismo, come lo si vive, se così in modo da protagonisti, no? Abbiamo tutti voglia di esibirci e poca voglia forse di guardare. Esibirci, esattamente, questa è una cosa importante. La persona prima parlava di confusione. Sì, confusione, no? Esatto. Ecco, sì. Io ho usato una metafora, cioè carezzare una donna con una piuma di un uccello è erotico, ma se c'è attaccato alla piuma c'è un pollo, è perverso. Sì, quindi... certo, decisamente, nell'immaginario almeno è così. E quindi lo stesso gesto può essere erotico o perverso a seconda della situazione, diciamo. E quindi l'erotismo, come si può dire, è molto nell'immaginario, nella fantasia, nel burlesque, come avete detto prima. Ecco, infatti, adesso io volevo fare una domanda prima della sua risposta, dovrò lanciare gli aggiornamenti sul traffico, ma è proprio questo, perché, e se ha una risposta ovviamente, in questo momento c'è questo interesse verso forme appunto come il burlesque, vedremo la pole dance, ne parleremo anche, la vedremo anche a Sanremo, perché c'è questa voglia, anche come diceva Carlotta Cannata prima, di molte donne di tornare a dare valore al loro corpo, ma semplicemente per piacersi, per avere stima di sé. Ecco, volevo parlare con lei di questi aggiornamenti sul traffico, poi torniamo con Willy Pasini. Il riposo del guerriero. Allora, con Willy Pasini stiamo cercando di dare una definizione, se possiamo, a quello che è erotismo e seduzione. E professore, lei diceva nel suo ultimo libro, appunto, dice che ormai tutti i sentimenti vengono spettacolarizzati. No, tendiamo dall'erotismo proprio al dolore, deve passare tutto alla spettacolarizzazione televisiva, per esempio, a scrivere e raccontare quanto sia pesante il proprio dolore, quanto sia forte la propria pulsione, eccetera. E questo sta facendo un po' perdere significato a tutte queste parole, immagino. Mi sembra, ma più che anche i sentimenti, è il sesso che è molto visibile, per cui io credo che il burlesque ripara questo, sì. Cioè, la realtà è troppo visibile e quindi le persone hanno bisogno per l'erotismo di avere un altro spazio, uno spazio di divertimento, uno spazio di fantasia, come il burlesque. Ecco, quindi è una ricerca giusta, cioè lei lo può consigliare quasi come terapia, ecco, diciamo. Assolutamente, assolutamente. Ma tra l'altro sì. Nelle giovanissime io ho scoperto che loro si fanno belle, si fanno donne anche precocemente, ma non per fare sesso, ma per la loro autostima, per essere più donne, sentirsi più sicure. Cioè c'è una fase tra i 12 e i 17 anni sì. In cui magari non fanno sesso, però si vestono in maniera molto burlesque sì. Per la loro autostima. Quindi lo fanno per essere se meglio della vicina, meglio della compagna, ma non è per la seduzione abituale verso che poi può portare al sesso con un uomo. Sì, ma è semplicemente proprio per essere diverse dagli altri e farsi notare, cioè per essere capite come individuo, ecco, questo è fondamentale. Sì, esatto, come individuo. E esatto. Gli uomini invece che cosa fanno in tutto questo? Gli uomini scappano. Non dovrebbero però, perché se no. Seduzione vuol dire condurre a sé, e gli uomini non dovrebbero scappare. No, ma gli uomini sono superati dalle donne in fretta in queste cose e quindi non hanno più il tempo di sedurre loro e quindi si trovano un po' sbalestrati e mi sembra che scappino in parte. Si sentono confusi, come diceva Francesca prima, quindi. Assolutamente, oppure che so, giocano a tennis tra di loro, fanno la vela piuttosto che fare la corte alle donne. Quindi fuggono. E volevo finire con un'altra domanda. Si parla nel suo libro di come ormai molti sentimenti vengono raccontati, fondamentalmente l'amore venga dimostrato attraverso i social network, magari ci si mette insieme a qualcuno con un SMS, parliamo dei più giovani chiaramente, e ci si lascia anche via SMS, no? Cioè si parla attraverso così, quasi una sessualità cibernetica. Ma dove stiamo andando? Cioè è proprio così perché la tecnologia ci aiuta a nasconderci in qualche modo? E c'è qualcosa di sbagliato in questo? O va bene, siamo figli dei nostri tempi e quindi usiamo la tecnologia in questo modo, ma questo non ci rovina? Ma io credo invece che sul fondo la rete è un grande vantaggio per l'umanità e per la comunicazione, però molte persone usano la rete per essere banali. Adesso prossimamente c'è San Valentino, vedrai, riceverete 100.000 messaggi su SMS sempre uguali. Come a Natale, uguale. Ecco. O come a Natale. Ecco, invece bisogna ricordare che l'erotismo è come Zorro, bisogna essere sorprendenti. E quindi ecco, è l'unico modo per essere davvero seduttivi e essere sorprendenti, va bene, questa sì. È una lezione che bisogna imparare, anche perché a volte magari ce lo dimentichiamo e quindi succede che perdiamo poi un po' anche noi stessi. Grazie Willy Pasini, grazie. Salve, e buona domenica. Difficile sedurre anche, io tra l'altro mi sono così meravigliato da quanti siti esistono, ma veramente una quantità, andate a fare una ricerca, mettete seduzione su internet. internet e sarete meravigliati di quanti siti troverete sulla seduzione che raccontano come si fa a sedurre, come si fa a sedurre un uomo, come si fa a sedurre una donna, quali sono le tecniche. E un po' mi viene da sorridere, perché reputo che tutto questo debba essere piuttosto naturale, cioè debba partire da noi. Non credo che esistano delle ricette per la seduzione, anche perché dipende sempre da chi abbiamo di fronte, fondamentalmente. Sono convinto di questo. Però è curioso come l'esigenza, visto che i siti che nascono e che parlano di questo sono moltissimi e che danno anche consigli e che fanno anche lezioni, tengono corsi, vuol dire che c'è una grande richiesta, la richiesta di piacere agli altri, la richiesta di riuscire davvero a sedurre. Vediamo se ci sono delle tecniche, perché più tardi ne parleremo, avremo degli altri ospiti e anche degli ospiti un po' inaspettati, in particolare una che ci proporrà un modo, diciamo così, di proporsi agli altri diverso dal solito e che forse potrebbe fare arricciare il naso a qualcuno di voi. Un bel successo di Morgan, si intitola Altrove, che è stato rieditato e usato come colonna sonora appunto di Manuale d'Amore 3 con Robert De Niro che si innamora della Bellucci. Fra l'altro lui proprio in un'intervista che ho letto su 7, le Corriere della Sera, dice: io l'ho fatto solo perché c'era la Bellucci, che rappresenta proprio la bellezza, nel vero, quella italiana, soprattutto nel vero senso della parola. Lei è una donna che veramente sa sedurre e ha saputo sedurmi, e questo almeno lo dice Robert De Niro, ma penso che troverà moltissimi di voi d'accordo. Continueremo a parlare di seduzione ed erotismo nel riposo del guerriero dopo il GR. Oriana scrive: la seduzione non ha definizione, è come la colomba di Picasso, la vedi come vuoi a seconda di come ti senti, non è un dove né un quanto, bensì un come. Allora sapete noi adesso come vi seduciamo? Con un palo. Christel Arbia, ciao Christel. Buongiorno. Buongiorno. Allora Christel, sposata, credo che tu abbia figli anche, vero Christel? Sì, io ho 3 figli e una mamma. Avvocato, lo voglio dire, che a un certo punto della sua vita ha deciso di fondare qualcosa che in Italia non c'era assolutamente. Ma allora, inizia in Cina dopo la terza gravidanza, dove non riuscivo a tornare in forma. E allora ho iniziato a fare pole dance. Dopo due mesi e mezzo ero tornata in forma. Ecco, la pole dance è il ballo che si fa attorno, sopra un palo, diciamo così. Ecco, no? Esatto, un misto di danza, fitness e acrobatico. Ecco, Christel, quindi, il problema è che quando le persone, anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici ovviamente, guardano, cioè si immaginano una ballerina su un palo, si immaginano subito la ballerina che si struscia sul palo, e quindi sì, di danza non c'è niente, c'è soltanto, chiamiamolo erotismo, forse neanche quello, sì, c'è qualcosa di più, e l'immagine è proprio da buttare, tra virgolette. Invece non è affatto così, vogliamo ridare forza a quello, sì, che... Sì, no, ma quello che descrivi tu è la lap dance che si svolge nei locali dove la ragazza si spoglie. Brava. Nella pole dance non c'è striptease, è fitness. È fitness. E che fitness poi, perché è difficilissimo. Ma nel senso che invece di sollevare, non so, 10 kg in palestra, una solleva il suo corpo. Che è molto meglio, quindi, perché è un peso adeguato a sé, ovviamente. Infatti, quindi i risultati si vedono, in più è divertente, e quindi le persone appena lo fanno diventano completamente addicted, diciamo. Certo. Senti, Christel, tu, le ragazze che... intanto che tipologia, scusami, ma ho mille cose in testa, intanto che tipologia di donne, di ragazze viene da te per... imparare. Sì. Allora, come età, diciamo dai 20 fino a 60 anni. Cioè, non, da noi non c'è proprio un'età per sentirsi bene nel proprio corpo, per sentirsi sexy. Sono ragazzi spesso che hanno viaggiato, che parlano bene l'inglese, possono essere mamme, giovani professioniste, artiste. Abbiamo tantissimi profili di donne tutti con l'obiettivo di rimettersi in forma, di divertirsi. Qualcuno viene, c'è un profilo. Qualcuno viene con un pregiudizio, cioè crede di trovare una cosa che poi non trova, o pensa che la pole dance sia particolarmente erotica o no? No, assolutamente no, perché comunque ormai si va su YouTube e poi si vedono i video. Certo. Cioè, la pole dance oggi è una disciplina riconosciuta, ci sono gare internazionali, poi in Italia c'è una federazione, ci sono delle gare, ci sono una decina di scuole, quindi è proprio una disciplina sportiva. Ecco, quindi purtroppo quindi è solo nell'idea delle persone che sia tutt'altro magari che sportiva. È più divertente per certe persone di pensare che facciamo cose strane, però no, mi spiace. Non succede. Fitness. Poi ovviamente lo facciamo da noi. Allora, Milan Tall Dance Studio ha deciso di utilizzare i tacchi, quindi noi perché facciamo danza. Poi ci sono altre scuole invece che fanno il pole gymnastic, quindi senza danza, solo con mossa al palo. Quindi ci sono diversi stili di pole dance, ecco, e pole fitness. La pole dance è molto seducente dal punto di vista della seduzione, la pole dance. Ma è femminile, sì. È sensuale. È sensuale. Però non è erotica, questo assolutamente no. Ecco, che è una cosa da sottolineare, molto importante. Sì. Ecco. Sì. E poi sai, diventerà di moda. Purtroppo bisogna dire così, quando un evento come Sanremo propone, no, qualcosa, sì, quest'anno succederà così con la pole dance, sì, poi diventerà automaticamente di moda, sarà una fortuna immagino anche per la tua scuola, almeno me lo auguro. Ma perché noi crediamo, e parlo per tutte le pole dance d'Italia, sì, crediamo molto in quello che facciamo, perché vediamo dei risultati sulle nostre allieve, quindi è una cosa veramente bella, la loro postura migliora, il loro modo di camminare, quindi diventano anche con più fiducia in sé, è proprio un bel sport. Quello... E poi devo dire che anche inizierà per i maschi. Ecco, infatti non ti stavo chiedendo, noi siamo sempre esclusi. Cioè noi... Assolutamente, perché quello che succede è che i ragazzi vedono il corpo delle loro fidanzate cambiare, che anche loro vogliono provarlo. Ecco, però è difficile magari, no, non è vero, un uomo su un palo si può vedere perché il circo ci insegna, perché fondamentalmente è un po' un'arte circense, no? Ci ricorda il trapezio. Dipende, come dico, ci sono due scuole di pensiero, c'è la scuola pole dance, che è un po' più femminile, sensuale, sì, certo, e c'è la scuola pole fitness, dove non è assolutamente sensuale, si fanno mosse tecniche al palo, è una ginnastica. Che sarà quella più maschile, quindi. Il palo è un attrezzo, assolutamente, certo, assolutamente, infatti sì, si sale sul palo soltanto con le braccia, con le gambe dritte, poi si incrocia il palo, testa in giù, si fanno addominali, quindi è una cosa molto atletica. Ecco, senza usare i pesi che sono noiosi. Christel, nella vostra scuola gli uomini non sono ammessi neanche a guardare, immagino. Vero? Ecco. Purtroppo no. Sì, quando facciamo dei spettacoli sì, però devo dire che tra i prossimi mesi apriremo anche un corso per gli uomini, quindi e poi potranno sperimentare, che andranno, lo farà in contemporaneo con quello delle donne, andranno a sbirciare come si faceva a scuola non una volta, penso, no, con la palestra, che quando era divisa tu andavi a sbirciare poi di là. No, non succederà. Christel, no, mi spiace. Senti, e l'ultima cosa è, quando hai deciso di aprire questa scuola, dalle tue amiche come rivista, quelle che magari non conoscevano cosa fosse la pole dance all'inizio, avevano magari qualche pregiudizio? Ma ci sono, specialmente per, devo dire, per le ragazze italiane che sapevano l'esistenza della pole dance, no? Anche le mamme a scuola dei miei figli mi hanno guardato un po' in modo strano, però io comunque come professione sono avvocato, ho viaggiato ovunque nel mondo, cioè voglio dire, bisogna essere aperto di mente nella vita, questa è una cosa molto innovativa che fa sentire le donne bene, quindi appena poi si sono interessati un po', hanno guardato i video su YouTube, sono anche venute da noi, hanno visto un po' le campionesse che lavorano a Milan Pole Dance Studio, hanno cambiato idea e qualcuna ormai si allena da noi. Beh certo, devo dirti che avere un avvocato che insegna pole dance non è male, lo vorremmo sicuramente. Io non insegno, gestisco la palestra e lo faccio come fitness. Noi lavoriamo soltanto con delle campionesse, avevamo prima Amber Ray che era vice campionessa sì, australiana, e adesso abbiamo Marion Cromp che è la vice campionessa francese che poi fa tutte le gare, proprio anche conosciuta nel mondo della pole dance, quindi. Comunque Christel, è veramente una meraviglia guardarvi, grazie davvero. Grazie a lei. Ciao, buona giornata, anche perché quando porti le cose in un certo modo le fai capire, anche quanta anima ci sia, indubbiamente anche il pensiero cambia, perché le cose bisogna conoscere. Maria Moles, ciao Maria, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, non so da dove iniziare. Io comincerei dalla tua valigia. La tua valigia è rossa. Sì. Giusto, allora io volevo, forse comincio così, guarda, c'era una volta un sistema che si usa ancora di vendita dove tante le amiche si organizzavano, si andava a casa di una di queste amiche e venivano proposti da una venditrice dei prodotti per la bellezza, molto famosi, il marchio, oppure per pulire la casa. Ma un bel giorno questi prodotti si sono trasformati, sono diventati in oggetti per la seduzione. E qui arriviamo proprio alla valigia rossa. E voi cosa fate esattamente, Maria? Noi organizziamo riunioni a casa delle ragazze per parlare sugli argomenti che generalmente non sono molto abituali. Praticamente le ragazze organizzano una serata, chiamano la consulente di zona. Sì. Quindi arriviamo noi. Quando arriviamo a casa delle ragazze, normalmente sono un po' imbarazzate perché non sanno cosa aspettare. Eh beh, immagino, anche perché so che avranno tantissime domande, ma poi magari fanno fatica anche a esporle. Però, insomma, fra donne è più semplice, perché gli uomini ovviamente sono completamente esclusi. Sì, ma comunque le riunioni sono organizzate in modo di creare un ambiente piacevole che facilita il dialogo tra le ragazze. Ecco, quindi tutto quello che poi viene proposto serve alla seduzione. Parliamo, ad esempio, di oli profumati, di massaggi e anche di giochi, ovviamente, erotici. Maria, ma che tipologia di donne, di ragazze organizzano questo tipo di eventi, di incontri? Allora, è adatto a tutti i tipi di donne, sposate, fidanzate, divorziate, single, giovani, più grandi. L'unica cosa che cambia tra una riunione e l'altra è il modo di trattare gli argomenti, un po' a seconda di come vedi le ragazze. Ecco, allora come cambia? Nel senso che, non so, se le donne sono donne sposate, che magari vogliono così mettere... introdurre qualcosa di nuovo nella coppia, no? Cioè ritornare a essere ancora seducenti. E come si svolge il dialogo? Un po' più aperto? Sì, se generalmente sono ragazze fidanzate o sposate con una coppia stabile, sì. Cerchiamo di parlare di più su come migliorare il rapporto, come aggiungere piccoli gesti per fare in modo che... di ravvivare la relazione. Certo, e invece con le ragazze più giovani cosa succede? Con le ragazze più giovani si trattano di più gli argomenti tipo la prevenzione sia di... Certo, ecco... di malattie o... Chiaro, quindi comunque... si punta più su quello, è molto interessante perché poi diventa anche un valore aggiunto ovviamente l'incontro. Maria, volevo capire quanto tempo ci vuole l'ultima domanda che ti faccio, quanto tempo ci vuole perché le ragazze si sentano a proprio agio per parlare e ascoltarsi? Più o meno. Generalmente dopo 10 minuti si sono scatenate tutte. Okay, vabbè. Hanno perso l'imbarazzo e iniziano a parlare, a confrontarsi. Sì, insomma, e quindi anche l'ambiente della riunione. Certo, anche a raccontarsi, perché poi è quella la forza di tutto, riuscirsi a raccontare anche raccontare se stessi di fronte agli altri. Maria, io ti ringrazio molto, anche perché so che per molti ascoltatori, appunto, questa storia della valigia rossa è completamente nuova. Se avete qualche curiosità, c'è un sito che è www.lavaligiarossa.it. Grazie Maria. Grazie a voi. Ciao, buona domenica. Gli aggiornamenti sul traffico e poi torniamo parlando ancora di seduzione ed erotismo, ma questa volta in pubblicità. Il riposo del guerriero. Fables, ciao, buona giornata. Ciao Stefano, buongiorno. Il nostro esperto di guerriglia marketing, perché seduzione ed erotismo fanno parte anche del guerriglia marketing, un modo... diciamo di oggi per cercare di proporre un prodotto, per venderlo, per farlo capire, ma non solo un prodotto ma anche molto altro, insomma per far conoscere una realtà, diciamo così. E, è stato particolarmente usato ovviamente, anche perché è una corda credo facile e difficile nello stesso tempo da usare, quella dell'erotismo, della seduzione, vero? Sì, esattamente, guarda, c'è una campagna molto interessante del novembre scorso, sì? Una campagna sociale promossa da un'associazione inglese che si chiama Coppafil, che diciamo lotta per sensibilizzare le ragazze sull'importanza di della palpazione al seno, sì. Sì, esatto, di effettuare controlli al seno con regolarità per evitare appunto il cancro. Che è successo? Che hanno scelto una via promozionale sicuramente non convenzionale. Scusami, rido perché ho visto il video che hanno tolto anche da YouTube. Ah, tra l'altro, ecco, innanzitutto il video sì, è molto difficile da reperire in rete, adesso sono riuscito a trovare un link su Vimeo, su YouTube è impossibile. Ma sì, l'hanno tolto perché sì, è porno, sì, secondo loro. Praticamente è una classica video chat erotica. Dove, diciamo, sapete, scusami Fabio, se mi interrompo, sapete quei programmi terribili che fanno di notte con questa davanti che ha il telefono con il numero sotto che scorre, no? Ecco, è questo che si vede nel video, però succede una cosa curiosa. Esattamente, perché il cosiddetto, diciamo, la persona che telefona in realtà è il conduttore dell'X Factor britannico, tale Peter Dixon, che in qualche modo inizia a fare domande un po' particolari alla ragazza, che sicuramente si sente, non dico in imbarazzo perché è già nuda di suo, però in qualche modo si sente messa un po' le corde perché sono domande particolari, nel senso che l'intervistatore gli chiede alla ragazza se si controlla il seno con regolarità, se ama il suo seno, se lo tasta, se anche, non so, controlla intorno alla zona di... Sì, perché inizialmente sembra una telefonata erotica come quelle che ci sono, in realtà lei non sa niente, ma è tutto preparato per arrivare poi far dire a lei quanto sia importante. Esattamente, per far sì che la ragazza inconsapevolmente diventi quasi testimonial per diffondere appunto questo messaggio sociale. In effetti la video chat si conclude con la ragazza che dice: certamente io amo il mio seno, lo controllo con regolarità, eccetera eccetera. Certo, io trovo che sia un'idea straordinaria, l'unica cosa che è rivolta a un pubblico sbagliato, perché sono convinto... No, attenzione, questa parte di campagna, sì, in realtà, sì, allora, c'è tutta quanta una parte di campagna precedente lanciata attraverso un'azione di stickering, cioè di adesivi. Molte persone appartenenti alla comunità, comunque sia le persone che anche erano iscritte al sito di Coppafil, sono state invitate ad apporre un adesivo su magari seni che trovano su campagne stampa, pubblicità, billboard, poster, cartellonistica. Dall'altra parte però, per sensibilizzare anche il pubblico maschile, anche per far sì che magari il pubblico maschile aiuti, non so, il partner femminile, o comunque sia... Sì. Esattamente, quindi rivolto anche ad un pubblico maschile, sicuramente questa promozione qui può funzionare per quel tipo di pubblico. Certo, okay, in questo senso, sì, anche perché qui quel tipo di programmi credo che li veda esclusivamente un pubblico maschile. Sì, e basta. Poi ecco, oltre a questo c'è più il fatto che, essendo stato poi il video censurato, se ne è parlato molto anche per questo aspetto qui, è normale che un video magari che può inizialmente essere di nicchia, improvvisamente si diffonde in maniera... appunto virale, ecco. Ecco, altri esempi di seduzione e erotismo usati nel marketing virale, ce ne sono molti. Guarda, c'è un'attività di un paio d'anni fa che riguarda il lancio della serie televisiva Californication, non sì, so se te la ricordi, dove il protagonista in qualche modo è abituato a lasciarsi andare a più di qualche scappatella. Sì, è uno scrittore, per dirla così velocemente, uno scrittore che deve trovare l'ispirazione per continuare il suo scritto e succede che ne fa di ogni sera, no? Si ubriaca, sì, va a donne, cambia donne, seduce continuamente, seduce tutte. Sì, seduce e abbandona contemporaneamente, sì, le donne che incontra sì. E quindi la città di Milano e Roma sono stati appesi tra metropolitana, tram, panchine, insomma, luoghi nevralgici di grande passaggio della città, circa 10.000 reggiseni. Rosa, rigorosamente rosa. Con l'etichetta che in qualche modo rimandava la serie televisiva, anticipando appunto l'arrivo della serie televisiva Californication. Ecco, poi invece c'è una marca di prodotti elettronici che per pubblicizzare un MP3, se non mi sbaglio, ha usato... Esatto, ha utilizzato una tecnica un po' particolare, sì, che devo si chiama molto stealth marketing, vale a dire il marketing nascosto, dove io non ti faccio vedere direttamente, non ti promuovo direttamente il prodotto, ma in qualche modo lo celo dietro a una mia qualche azione. In questo caso è una sorta di candy camera, una ragazza molto prosperosa, con le buste della spesa, realizza una sorta di video come una vera e propria candy camera, vale a dire si avvicina ad un pubblico maschile con un MP3 inserito, insomma, in mezzo al seno, chiedendo appunto alla persona che incontra di premere il play, certo, di cambiare tracce. Sì, esatto, di cambiare tracce. Perché lei ha le mani impegnate dalle buste dei vestiti che ha comprato. Sì. Quindi nasce, da una parte ovviamente non è tanto il messaggio per chi in quel momento fa parte della candy camera, che ovviamente non capisce che certo, è al centro di un di una promozione, né tantomeno si ricorderà sicuramente del lettore MP3. Però poi ne nasce un video virale, vale a dire una candy camera che si diffonde in maniera virale attraverso gli strumenti che ormai conosciamo. E poi il prodotto arriva, poi, cioè, o vorrebbe arrivare, insomma. O vorrebbe arrivare, certamente. Ecco, quindi la seduzione e l'erotismo usate anche nel guerriglia marketing. Non so se tu ci pensi o meno a queste strade per le tue fatiche, oppure è una strada che sì. Ma dipende molto dal prodotto, insomma, che poi si vuol proporre. Secondo me in questi casi qui andava bene. Sai, un'azione di questo tipo, perché è una via apparentemente facile questa, no? Dell'erotismo, perché comunque tocca a tutti, però è difficile perché se la tocchi in modo sbagliato diventa fastidiosa, per cui è complicata da toccare. Certo, sì, esattamente. E quindi sono lì, appunto, alternative come queste qui che ti ho raccontato. Esatto, sembra semplice ma non lo è affatto. Forse proprio perché è troppo semplice diventa proprio difficile comunicare in modo corretto. Grazie Fables. Grazie a voi. Ciao Blog Guerriglia, il suo blog dedicato proprio al guerriglia marketing. E a questo punto, beh, insomma, uno degli elementi seduttivi quotidiani indubbiamente è tutto quello che è l'eccellenza a tavola. Il gastronauta. Davide, questo è il tuo campo, perché quanto si seduce con cibi e vini? È una seduzione costante, anche verso se stessi. Ma infatti io dico sempre che non sono i piatti afrodisiaci o quelli cosiddetti afrodisiaci, poi ci tornerò sopra, ma è la situazione, l'ambiente, il momento. Cioè, il cibo è comunicazione, cioè il cibo serve per comunicare, quindi serve per trasmettere emozioni. E sicuramente in una serata due il cibo è importante perché può creare i presupposti, ma non è il cibo stesso che porta al talamo, come scriveva Omero Romprini questo medico catanese nel 1926. Cioè è la suggestione, il momento. E devo dire che sul cibo afrodisiaci di stupidaggine se ne dicono tante, perché la gente veramente può pensare, ma io penso, spero di no, che non ci pensi più, che le ostriche, che lo champagne, che il caviale, che tante altre cose che sono considerate afrodisiache siano quelle che fanno scoccare la scintilla. In realtà permettono lo scoccare della scintilla alcuni cibi piuttosto che altri. Perché l'ostrica, perché lo champagne, perché il caviale? Perché in un certo senso sono cari e quindi è un gesto che magari lui o lei fanno di attenzione verso l'altra persona, ecco, vengono considerati così. Però la cosa più straordinaria è questa, che secondo molti scienziati il piatto più afrodisiaco in assoluto è la polenta con le rane. E la polenta con le rane perché contengono alcune sostanze che, se prese in dose, diciamo, normale, possono così aumentare la tensione tra due persone, quindi l'attenzione, e sembra che veramente da ricerche siano proprio questi due combinazioni, la polenta con le rane, che sia veramente straordinaria. Io non so se è così, bisognerebbe fare degli esperimenti ovviamente, ma credo che anche in questo caso ci sia un qualcosa, un mezzo in più, ma non è sicuramente mangiando polenta e rane che si possa arrivare alla conclusione, insomma, di un rapporto, alla serata di un rapporto. Quindi ora che si sta avvicinando il 14 di febbraio, è vero, San Valentino, hai ragione. Tutti preparano cene con menù, appunto, dove l'afrodisiaco è di casa. Ecco, io dico bene, attenzione, chi ci crede e chi non ci crede, ma magari chi ci crede va benissimo farlo, ma non sarà quello, sarà la situazione, sarà la serata, sarà il momento, magari una serata molto basata su cibi afrodisiaci o cosiddetti afrodisiaci porterà anche a qualche discussione, potrebbe portare anche a qualche discussione, ma non sono quei cibi portano a questo. Però io credo che ci voglia un po' più attenzione a quello che è la preparazione, quindi non so, la tavola ben apparecchiata, i bei bicchieri, credo che queste poi siano invece le cose. Sicuramente la situazione. Sai, durante il San Valentino ci sono alcuni ristoranti che hanno delle sale per due. Sì. Ecco, questo può essere un gioco abbastanza divertente, cioè andare in un ristorante, avere una saletta proprio per due. Io ricordo che a New York c'è un ristorante di uno chef, di un patron di origine italiana, il quale aveva una saletta per due dove c'era un violinista che a un certo punto arrivava e suonava un paio di canzoni per i due. Ecco, magari queste sono, sono attenzioni che possono sicuramente coinvolgere. Ecco, dovendo, dovendo scegliere un vino, Davide, che possa essere seducente, magari per i profumi, non lo so, per l'aspetto della bottiglia, anche qualcuno guarda anche quello, magari senza capire cosa c'è dentro. Io credo che sicuramente bisogna capire la persona che c'è davanti. Sì. Cioè, tu stai parlando anche di bottiglia. Beh, c'è una bottiglia di acqua minerale di Swarovski che costa 200 euro, quindi che si vuol buttare direzione vada pure, magari compri un vino da 10 euro e una bottiglia di 200 euro di acqua minerale, potrebbe essere divertente se la signora o signorina beve solo acqua, potrebbe essere un grandissimo gesto di conquista questo. Vero. A me è capitato in un ristorante romano dove c'era un tavolo vicino, ho visto che c'era un gran correre dei metro, del metro a sostituire una, diciamo, una bottiglia dentro al ghiaccio. E a un certo punto mi ha detto: sì, questa sera questo signore che abituè arriva con una signorina che beve solamente acqua e c'è la bottiglia di Swarovski da 200 euro. Quindi ecco, può succedere di tutto, però io credo che veramente, non è che mi smentisco su quello che ho detto prima, ma le bollicine sicuramente sono quelle che più di ogni altro sono adatte, a meno che non si abbia di fronte una rossista. Sì. E quindi a questo punto bisogna andare su un grande rosso importante, perché ci sono alcune signore e signorine che non amano le bollicine e amano dei vini importanti, oppure un grandissimo bianco importante profumato, come dici tu, magari che sa di pesca, come il Sauvignon. Ecco, cioè, alcuni vini sicuramente, conoscendo la persona, possono incidere come, e bisogna andare in quella direzione per forza. C'è chi ama la birra oggi, quindi perché no? Cioè, la birra la vedo, sono sempre bollicine, però se uno ama solo la birra, per carità, se uno ama la Coca-Cola, cosa fai? Gli dai magari quella ora disegnata dai grandi stilisti. Certo, quindi fondamentalmente non è mai, ma questo appunto è chiaro, è così, è andare verso lo stereotipo di quello che è afrodisiaco o seducente, ma invece avere il massimo dell'attenzione verso l'altra persona, ed è il modo migliore per una cena, appunto un pranzo, che possa portare alla seduzione. Ci può essere anche un piatto galeotto. Sì. Ci può essere un piatto che nell'altra persona fa breccia perché c'è un ricordo di memoria, come posso dire, che può essere molto significativo. Insomma, ancora una volta la ratatouille del film, no? Alla fine, sì. Perché toccando quelle corde poi si riesce a conquistare l'anima, anche con un piatto. È basta così, perché la ricerca prustiana, insomma, è sempre quella che alla fine vince e convince. Quindi, se dovete conquistare con un piatto, prima informatevi da qualcuno quale possa essere quello giusto per la persona che volete conquistare. Sì. È l'unico modo. Grazie, Davide. Fate un'indagine, magari oggi con Facebook si riesce a far tutto. Ah sì, questo è vero, si riesce a capire molto, in effetti adesso arrivi a tutto e a chiunque in quel modo. Grazie Davide, ciao. Ciao, buona giornata, grazie anche a te, a domenica prossima sicuramente, poi con le pillole del gastronauta durante la settimana, le 11.31 ci sono le previsioni del tempo e poi 1000 euro per voi per il mistero in 24 minuti. Il riposo del guerriero. È bello perché i messaggi che sono arrivati dedicati alla seduzione e all'erotismo sono tutti femminili. Questo è un argomento che insomma, le donne in qualche modo apprezzano di più o comunque si sentono più coinvolte. Clara dice: per me la seduzione è la capacità di incarnare se stessi prima di tutto, che poi è quello che diceva Willy Pasini fondamentalmente, ma infatti anche lui si rivolgeva alle ragazze. E per quanto riguarda i cibi, mi faceva sorridere Marta che dice: io sono stata sedotta da una frittata di cipolle, che così è difficile pensare che una frittata di cipolle possa sedurre, no? Per tutto quello che succede dopo. Eppure, come vedete, tutto è possibile, come diceva Davide Paolini, e allora è possibile anche portarsi a casa 1000 euro. un mistero in 24 minuti. Indubbiamente è una cifra seducente per poterla portare a casa. Quante P ci sono in questa frase? Andrebbero contate. Dovete riuscire a risolvere il mistero in 24 minuti. La soluzione può essere una notizia della settimana oppure un personaggio. E più indizi ascolterete, però più il premio si abbasserà. Partiamo ovviamente da 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, quindi l'acquisto di libri cartacei oppure elettronici, e quindi anche da regalare a questo punto, che 1000 euro sono tanti, però insomma, la lettura è sempre un piacere, non solo per se stessi ma anche per gli altri, e per averli dovete partecipare. Il numero di telefono per giocare 800 24 00 24 e partiamo come sempre con il primo indizio. Mia, mio no. Ci può giurare, dottore? Io di più. No, non credo. Ma lei adesso dov'è? Vicino a te? Sì, sì, senz'altro. State attente quindi quando vostro marito risponde al telefono e dice delle frasi così, perché dall'altra parte potrebbe esserci appunto Claudia Mori con Buonasera Dottore. È stato un grande successo, la voce di lui era quella di Alberto Lupo, se non mi sbaglio. Nicola da Milano, ciao. Sì, buongiorno. Ciao Nicola, non ti è mai successo di essere al telefono con qualcuno e far finta che fosse un'altra persona per non farti accorgere? Qualche volta, infatti la canzone mi piace. Certo, non si fanno queste cose, però. Lo so, però bisogna fingere. Vabbè, allora Nicola, per te ci sarebbero 1000 euro, ammesso che tu abbia una risposta, oppure vuoi ascoltare un altro indizio? No, io vorrei provarci. Oh, abbiamo 1000 euro. Vai. Pensavo all'obbligo dell'invio telematico della... certificato da parte dei medici. Sì, devo dire molto comodo per non andare più in posta, però qualche medico si è lamentato perché dice non funziona ancora come dovrebbe. Va bene Nicola, grazie. Per te grazie. Potrebbero arrivare 1000 euro, ma come sempre sai che lo scopriremo soltanto allo scoccare del 24esimo minuto. Ciao. Ciao. Carla dalla provincia di Alessandria. Pronto, ciao. Ciao, tuo marito non ha mai detto buonasera dottore al telefono? Ma qualche volta succede, speriamo che non sia Claudia Mori. Devi stare attenta alle frasi che ci sono dopo, ovviamente. Sì. Allora, Carla, abbiamo ancora 1000 euro per te, cosa vuoi fare? Io vorrei provare. Anche tu, dimmi. Sì. Allora, vorrei dire come notizia che dal 1° di febbraio si può scegliere se ricevere o no le telefonate a scopo pubblicitario a casa. Tu cosa scegli? No. Adesso vorrei capire chi, non credo che nessuno dica sì, per cui vedremo cosa accadrà. Grazie Carla. Grazie. Buona domenica, grazie. Luciana da Brescia. Ok, dunque io avrei detto la stessa cosa che ha detto Nicola. Però già che l'ha detta lui, direi Brunetta. Brunetta proprio. Ah, ok, va bene. Quindi tu dici proprio lui che ha inserito la legge. L'obbligo. Cioè, secondo me è più giusto quello di Nicola, però l'ha già detto lui. Quindi... E quindi non ti puoi ripetere. Esatto. Grazie Luciana, ciao, buona domenica. Anche Luciana non ha sprecato un indizio, siamo ancora a 1000 euro infatti. Giuliano da Cremona. Buongiorno. Buongiorno Giuliano, siamo ancora a 1000 euro, vedi un po'. Lo spreco io l'indizio. Oh, passiamo. Abbiamo già il traffico pronto? Sì, allora facciamo così. Prima gli aggiornamenti sul traffico e poi sentiamo il secondo indizio. Un mistero in 24 minuti. Allora Giuliano, che è da Cremona, ha chiesto un altro indizio, è il secondo indizio, quindi scendiamo a 500 euro e arriva da Riccardo Fogli, è stato un grande successo questo per lui. Questo è il secondo indizio, Riccardo Fogli, dopo essere stato leader dei Pooh, appunto si è messo da solo, devo dire che è un grande successo. Poi la carriera da solista è sempre difficile e i Pooh invece hanno continuato. Allora, Giuliano, te la ricordavi questa canzone? No. Aveva avuto un grande successo. Comunque, Storie di tutti i giorni, così sentito da Riccardo Fogli, il cantante. Ma io metto una notizia e dico quella. Pira De Paoli, quella che ha vinto 1 milione di euro al programma di Gerry Scotti, che ha trovato lavoro come segretario in uno studio medico. Ecco, quindi tu parli della notizia o del personaggio? Della notizia. Della notizia. Studio medico. Grazie Giuliano, ciao, grazie. Buona giornata, ciao. Grazie. Doriana da Milano. Ciao, buongiorno. Ciao Doriana, buongiorno. Mi ha completamente spiazzato questo secondo indizio. Ma dai. Posso chiedere un altro? Ma ne devi chiedere un altro se vuoi, così scendiamo a 300 euro. Eccolo qua. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Doriana, hai riconosciuta questa voce? Assolutamente no, allora, peggio che andar di notte. Questa era Susan Boyle che cantava I Dream a Dream. Te lo ricordi la vicenda di Susan Boyle? Di questa canzone? Sì, di questa, sì, ecco, sì. Aveva partecipato a British Got Talent e così tutti pensavano che, siccome era brutta, che non sarebbe stata capace, invece è stata un'ovazione pazzesca, una standing ovation da parte di tutto il pubblico, ed è, ha venduto anche tantissimi dischi. Il primo disco ha venduto oltre 10 milioni di copie, pensate che è un record per l'esordio di qualcuno, per cui grande successo poi per Susan Boyle. E questa è Dream a Dream, che vuol dire ho avuto un ho sognato un sogno letteralmente. Oh, allora con questa spiegazione sì. Mi è venuto in mente il televoto. Il televoto. Saremo la nuova. Se ne è parlato anche, ne abbiamo parlato anche stamattina. Grazie, grazie Doriana, buona giornata. Ciao, buona ciao. Giornata. Grazie. Simona dalla provincia di Verona. Ciao. Ciao Simona. Ciao ciao. Io pensavo, rimanendo ancora con la prima canzone sul dottore, sulla notizia del manager di un ospedale di Palermo che faceva ricoverare i suoi pazienti, comunque anche se non aveva posto, facendolo sedere su una sedia. Grazie Simona, chissà, buona giornata. Grazie. Grazie. Neda da Lucca, buongiorno Neda. Buongiorno. Il nome che mi piace molto, mi piacciono i nomi corsi. Piacciono io i nomi. Ho messo un sacco a farmelo piacere. Invece è molto bello. Allora, Neda, che cosa vogliamo fare? Abbiamo un ancora... altro indizio. Un altro indizio, ma davvero? Ma veramente? Ah, ma che peccato. Vabbè. Peccatissimo. Eccolo qua, il quarto indizio, 200 euro. Accettami e vedrai, insieme cresceremo. Qualche metro in più e il cielo toccheremo. Più alti dei giganti, più forti di Godzilla. Faremo una crociera su una nave tutta gialla. Andremo su un'isola che sembra disegnata, con colori enormi e un mare da sfilata. Per quanto mi riguarda ho fatto già il biglietto. Ti prego non lasciarlo accanto a un sogno in un cassetto. Eccoci qua, è scaduto anche il tempo con il quarto indizio, era Alex Britti con Una su un milione, fra l'altro è uscito anche il suo disco di successi. Sì. Io volevo sapere, siccome è già stata detta la notizia di quella casalinga che ha vinto un milione lì a quel quiz di Scotti, volevo sapere, avevano detto la notizia o il personaggio? Avevano detto la notizia. E allora io dico il personaggio, Michela De Paoli. Io lo sapevo, e adesso mi dispiace per Giuliano, io gli ho chiesto, ma la notizia o il personaggio? Ecco. Era il personaggio. Sì, certo che hai vinto 200 euro. Grazie. Ma ti è servito proprio questo indizio o no? Sì, ma ti è servito, va bene. Una su milione, io c'avevo un'altra cosa prima. Ah, grazie Neda, ciao. Grazie una a su, voi. Una su un milione perché Michela De Paoli ha vinto un milione di euro, ai Dream Dream perché è stata paragonata alla Susan Boyle italiana, storia di tutti i giorni perché lei è una ragazza, una donna ordinaria, così si è definita e l'hanno definita. Buonasera dottore, perché è laureata. Complimenti anche a Michela De Paoli per la sua bravura. Grazie come sempre a Giorgio De Luca redazione, l'assistenza di Margherita Lina, Paolo Corleone in regia, e a voi tutti per l'ascolto. Ci sentiamo domenica prossima e quindi buon fine weekend da Stefano Gallarini. Il riposo del guerriero. Ah!